esperienze estreme che ci fanno sfiorare la morte, fisica o spirituale. Linea di demarcazione tra il male e il bene, tra la malattia e la guarigione, tra il tesoro che custodiamo dentro e il maligno che si insinua per corromperci e snaturarci. Chi siamo? Tra le pieghe del non detto, dei sogni spezzati, dei sentieri calpestati, continuiamo a cercarci. Benvenuti, io sono DJ Prisma, questa è Radio Prisma 14, Extremes. E voglio iniziare con questo pezzo, Dark Matter, dei Porcupine Tree. Inside the vehicle, the cold is extreme. Smoke in my throat kicks me out of my dream. I try to relax, but it's warmer outside. I fail to connect, it's a tragic divide. Like a rose in the river flow. E vorrei, dopo questo pezzo dei Porcupine Tree, ricominciare a giocare come la puntata precedente, aprendo nuovamente un libro a caso, un libro che erano, penso, esattamente 10 anni che non toccavo più. E leggo da pagina 96, casualmente regalata a questa giornata piovosa di novembre. Non è vertiginosa questa successione di mondi, ciascuno dentro un altro più grande, come le matriosche e le scatole cinesi, dalla stanza dove mi trovo o dal bar dove faccio colazione fino ai confini dello spazio siderale, il cui presunto silenzio spaventava Pascal, come confessò questo tormentato pensatore del 600. Dal mio piccolo mondo fino all'universo di tutti e di tutto. E l'aspetto più notevole di tale successione di mondi, sia detto per inciso, è che i più angusti e limitati sono comunque quelli che esistenzialmente mi stanno più a cuore. Mi preoccupa molto di più il tubo del gas di casa mia o il terremoto che scuote il mio paese, delle colossali esplosioni di stelle la cui luce impiegherà secoli ad arrivare fino agli osservatori della Terra, se mai arriverà. Tuttavia, malgrado questa prospettiva irrimediabilmente provinciale, sono sempre cosciente anche del fatto che faccio parte dell'universo con la U maiuscola e non meno irrimediabilmente mi domando cose su di esso, di che cosa è fatto, è finito o infinito, come è cominciato, finirà un giorno. Era previsto che noi umani, e dunque anch'io, comparissimo a un certo punto su una scena così grandiosa? Questo libro era spuntato un po' per caso nella mia vita, in un periodo in cui lavoravo in una libreria, e si chiama Le domande della vita, di Fernando Savater. Uscivo da un periodo veramente pesante, in cui miracolosamente ero riuscita comunque a sopravvivere a un oceano in tempesta e a portare a termine i compiti che quell'età mi richiedeva, quindi un diploma di maturità. E ricordo che ero nella fase di transizione tra la fine di un periodo, quindi adolescenziale, e l'inizio di una pseudo-età adulta, ma non troppo, perché l'università poi alla fine è un periodo un po' sospeso, no? Tra l'adolescenza e l'adultitudine, in cui ancora sei quasi parcheggiato, no? Tra le aspettative e poi la realtà concreta quotidiana del badare a se stessi anche in termini economici. E ricordo che appunto cercavo delle risposte al mio stare al mondo e al mio essere sopravvissuta, e si presentò questo libro. Non bastò ovviamente la sola lettura di quello, nonché di altri testi che mi accompagnarono in quella fase, perché a volte si ha dentro come un buco nero, un sole al contrario, l'altra faccia della medaglia, quella che rischia di portarti a fondo se non ti sbrighi a espellerlo. Questo è Black Hole Sun, nella versione di Peter Frampton. Yeah. Dannati i buchi neri. Per alcuni iniziano in famiglia, direttamente da quel serbatoio che ci ha generati. Perché le persone cambiano e non sempre per loro volontà. Questa è Ex Madremenda dei Di Verba, un gruppo che ho scoperto grazie a un concerto dei Marlene Kunz, loro erano la band di apertura. Thank you. a tutti, grazie davvero. Buona serata. Come avete potuto sentire, il pezzo è tratto proprio dal live di Civita Castellana, in cui ho avuto la fortuna di vederli proprio nella loro performance dal vivo, e vi giuro che nonostante la qualità non proprio ottimale, valeva veramente la pena farvelo ascoltare, e non vi sto a raccontare l'emozione di sentirli proprio dal vivo. Un brano trascinante, come avete sentito, fino all'evoluzione finale con l'esplosione dei suoni elettronici che si accompagnano poi a una psichedelia che riesce a portare la mente al di sopra della materia. Il testo purtroppo non sono riuscita a trovarlo su internet, ma se vi capita riascoltate il pezzo e fate attenzione anche alle parole, perché meritano e esprimono perfettamente qualcosa che sento anch'io dentro di me come una delle mie problematiche che sto cercando di affrontare. Tra l'altro il video dello stesso pezzo è visibile su YouTube, se volete lo potete trovare direttamente cercando Di Verba ex Madre Menda, oppure visitando la mia pagina YouTube, tanto è tra i miei preferiti, e su YouTube mi trovate come Prisma TBF K Museum. Avete presente quei momenti in cui si è sospesi sull'orlo di un abisso e ci coglie violenta la paura di non sapere proprio da che parte andare, quale delle due direzioni del bivio scegliere? Si resta quasi pietrificati, intorpiditi, insensibili, in attesa di quella scossa che ci faccia smettere di crogiolarci nel nostro dolore. Stay again. manifesto, stile d'orchestra, in questo caro fio. Don't touch, don't die, don't suffer, don't rhyme, don't fantasize, don't rise, don't die. Don't project, don't connect, protect, don't expect, suggest. Don't project, don't connect, protect, don't expect, suggest. Avete appena sentito il YouTube, non c'è neanche bisogno che ve lo dica, il brano appunto intitolato Numb, che è una parola che ho guardato mille volte sul dizionario online d'inglese, ma non mi riesce a entrare in testa il significato, che è appunto pietrificato, intorpidito. Ora aprirò un altro libro a caso, che non ho ancora letto, ma dovrei farlo al più presto perché credo che mi riguardi, è da vicino. La pagina è la 121. Ebbi, vedendolo in quell'atto, come una vertigine. D'improvviso avvertii che spiegare lì per lì a lui e a mia moglie, che pendevano da me, l'uno supplichevole e l'altra ansiosa e spaventata, i motivi di quella mia testarda risoluzione, di tanta gravità per tutti, non mi sarebbe stato possibile. Quei motivi, che pur sentivo in me aggrovigliati in quel momento, e sottili e contorti dai lunghi spasimi delle mie tante meditazioni, non erano più chiari del resto neanche a me stesso, strappato dalla concitazione dell'ira, a quella terribile fissità di luce che folgorava tetra, da quanto avevo così solitariamente scoperto. Tenebra per tutti gli altri, che vivevano ciechi e sicuri, nella pienezza abituale dei loro sentimenti. Avvertii subito che, a svelarne appena appena uno solo, sarei parso irremissibilmente pazzo all'uno e all'altra, che per esempio non m'ero mai veduto, fino a poco tempo addietro, come essi mi avevano sempre veduto, cioè uno che vivesse tranquillo e svagato sull'usura di quella banca, pur senza doverla riconoscere apertamente. Questo era Pirandello, uno nessuno, 100.000. Come ci sentiamo tutti a volte. La nostra identità che cambia in base a come ci vedono gli altri, in base al contesto in cui ci troviamo ad agire e in base anche alle fasi della vita che attraversiamo, non siamo mai la stessa persona, nemmeno per noi stessi, come due occhi senza una faccia. is gone from your eyes, I better realize. Eyes without a face, eyes without a face. Got no human grace, rise without a face, such a human waste, rise without a face. Questa era la splendida Eyes Without a Face di Billy Idol, che vorrei dedicare a M, che tanti anni fa ha dovuto faticare davvero molto per vedere i miei occhi. E so che questa canzone gli piace moltissimo e vuole essere un modo per dirgli di stare tranquillo, che non me lo farò scappare tanto facilmente. E che non deve aver paura dei miei voli nell'abisso, nell'oltre, nell'universo, alla ricerca di una famiglia di anime, perché in fondo è solo la mia immaginazione che vuole un po' giocare con me. As she passes by, I say to myself, I'm such a lucky guy to have a girl like her. Is a dream come true of all the girls in the world? She loves me true. Just my imagination, the runaway with me. It was just my imagination, running away with me. Soon we'll be married, raise a family. Two boys for you, what about two girls for me? I tell you, just a fella with a one-track mind. Whatever is I want, baby, I seek and I shall find. It's just my imagination, running away with me. Yeah, it was just my imagination, running away. Don't ever let another take a look from me, or I'm sure you'll die. But love is ecstasy when her arms enfold me. I hear a tender rhapsody, but in reality she doesn't even know me. Just my imagination, running away with me. It was just my imagination, running away with me. mio Dio, non so voi, ma io mi sono alzata in piedi con tutte le cuffie, ho cominciato ad ancheggiare, a ballare. Beh, abbiamo iniziato con un discorso sugli estremi, su quei momenti, quelle esperienze veramente forti che possono portare a due tipi di reazioni: o l'annientamento totale del nostro essere e quindi la nostra completa resa al male, alla rabbia, al dolore, oppure la sana reazione che dopo i primi istanti di torpore, annientamento, paura e imprecazione ci porta verso ciò che ci fa stare bene. E anche in amore gli estremi possono veramente attentare alla stabilità di un rapporto. E ho aperto ancora una volta, lo so, un mio vizio, un libro a caso, e leggerò per voi la pagina 248. Le avversità richiedono azione. L'azione sorretta dall'amore porta alle soluzioni. La forza del nostro amore si rivela nel nostro modo di affrontare i problemi, di gestire le nostre frustrazioni. È facile essere concreti e amabili allorché tutto fila liscio nelle nostre vite. La nostra vera forza è chiamata in gioco quando la corrente della vita muta all'improvviso e temporaneamente rischia di sopraffarci. L'amore edifica i migliori tra i superstiti. Ci insegna a non sprecare il tempo domandandoci perché proprio a me, ma piuttosto a chiederci ora che fare. La prima domanda produce solamente conflitti sterili e insensati, mentre la seconda sprona ad agire senza il fardello dell'autocompatimento e di deplorazioni totalmente incongrue. Se si ama, raramente le avversità portano alla fine di un rapporto, anzi, proprio la forza dell'amore ci aiuta a cambiare e a sopravvivere. E poi c'è una citazione in fondo alla pagina di Joseph Fort Newton. Non sappiamo cosa può accaderci in quello strano guazzabuglio che è la vita. Possiamo però decidere quello che avviene in noi, come affrontarlo, che uso farne, ed è questo, in conclusione, ciò che conta. E io sono completamente d'accordo con questo, che è un testo tratto da Leo Buscaglia, Nati per amare, perché fondamentalmente credo che si rischi, altrimenti, se non si prende in mano la nostra vita con l'azione, di finire per aspettare Godot in eterno. Questo è Claudio Lolli. Buon ascolto. Vivo tutti i miei giorni aspettando Godot. Dormo tutte le notti aspettando Godot. Ho passato la vita a aspettare Godot. Nacqui un giorno di marzo o d'aprile, non so. Mia madre che mi allatta è un ricordo che ho. Ma credo che già in quel giorno però, invece di poppare, io aspettassi Godot. Nei prati verdi della mia infanzia, nei luoghi azzurri di cieli aquiloni, nei giorni sereni che non rivedrò, io stavo già aspettando Godot. L'adolescenza mi strappò di là e mi portò ad un tavolo grigio, dove fra tanti libri però, invece di leggere, aspettavo Godot. Giorni e giorni a quei tavolini, gli amici e le donne vedevo vicini. Io mi mangiavo le mani però, non mi muovevo e aspettavo Godot. Ma se i sensi comandano, l'uomo obbedisce. Così sposai la prima che incontrai, ma anche la notte di nozze però, non feci nulla aspettando Godot.

I got a feeling it's beginning to grow. There's only one thing I can say. I'm ready to love you. I'm ready to hold you. I'm ready to love you. I'm ready to hold you. I'm ready as I'm gonna be. To find, but baby, it's easy, and I'll make it clear. There's only one thing on my mind. I'm ready to love you. I'm ready to hold you. Non so voi, ma io era veramente tanto tempo che non ascoltavo Bryan Adams e questo pezzo mi ha riportato un po' indietro nel tempo. Ricordo ancora quell'album, quel best of che non mi stancavo di ascoltare negli anni del liceo. Beh, siamo giunti al termine di questa 14ª puntata intitolata Extremes. Io sono sempre DJ Prisma e vi invito ancora una volta a visitarci su radiopazza.blogspot.com e se potete anche a commentarci, perché siete, diciamo, la linfa che ci fa andare avanti in questo nostro sperimentare radioterapia senza scopo di lucro, quindi ovviamente lo facciamo tutti senza prendere un euro e tutti da casa col proprio PC, con una cuffietta. Io vi dico, sto usando una vecchia cuffietta di Skype, il microfono si sta per staccare, ma vado avanti imperterrita perché è troppa la passione per la musica e per la comunicazione, per cui Non mi fermerà nessuno, nemmeno una cuffietta scrausa. Anche se sto meditando di comprarmi una di quelle serie per un mio vezzo personale. E vorrei concludere con una cavalcata psichedelica che vi darà l'impressione di fluttuare tra milioni di colori, forme cangianti, senza aver preso neanche un acido. Basta semplicemente la potenza della musica sui nostri neuroni, sulle nostre sinapsi. Il pezzo che ho scelto per salutarvi è degli Orbital e il titolo è più che mai bene augurante: One Perfect Sunrise, un'alba perfetta. Con questo vi saluto e vi abbraccio con affetto, vi ringrazio per esserci sempre e vi rimando alla prossima puntata. So